lì finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. 22:56, minuti primi, 4 minuti alle 23. Riprendiamo dopo un paio di trasmissioni, una di assenze, una in cui abbiamo finito più o meno a quest'ora. Riprendiamo la ordinaria programmazione nella notte di Radio Onda Rossa, di Roma, del Lazio, del web. Le frequenze, gli 87,9 della modulazione di frequenza della banda romanellaziale. La radio che vive, che si muove, che è attiva grazie ai vostri contributi. La radio di chi se la sente, dice lo spot, diciamo da tanti anni. Il vostro contributo arriva tanto in forma di contributo al dibattito, all'analisi, al racconto di quello che succede, di quello che accade. Ovunque ci sia la scintilla della rivolta, della lotta, della resistenza all'oppressione, ma vive anche grazie al vostro contributo importante, monetario, economico. Un contributo che perviene in varie forme. È uscita la scarceranda, l'autoproduzione di Radio Onda Rossa. Per ogni agenda acquistata, un'agenda entra in carcere, quindi comunicateci il nome del detenuto, della detenuta a cui dobbiamo farla recapitare. È uscita proprio da qualche ora, fresca fresca, scarceranda più quaderno numero 14 di scarceranda, scarceranda 2020. Ancora ne abbiamo poche copie qua in radio, comunque già potete passare a prenderla, ne arriveranno, fra poco arriveranno le altre. La tiratura completa di scarceranda per questo 2020, quindi cominceremo anche ad andare in giro per la città a proporla, a parlare di carcere. Un modo questo per sostenere la radio, un modo per cercare di abbattere le mura delle galere. C'è il sito della radio, sotto il sito della radio www.ondarossa.info. Ci sta Sostieni con un cuoricino, cliccateci dentro, ci stanno tutte le modalità per fare in modo e fare in maniera tale che la radio possa avere un sostegno economico e quindi contribuire alle spese della radio stessa. Un sito comunque che è pieno di quelle che sono le pubblicazioni in diretta che la radio fa, con tutti i suoi podcast. Ultimi quelli del sottoscritto, nel senso che le trasmissioni di 25 O'Clock ce ne sono non tuttissime, parecchie, quando ci ricordiamo di pubblicarle. Vi ricordiamo anche il numero del conto corrente postale della radio, 61 80 40 01, Dante Stara, Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Vi ricordiamo anche i contatti per farvi pervenire le vostre comunicazioni alla radio: ondarossa@ondarossa.info, nonché i vari canali social, che ce l'abbiamo ma non è che ci teniamo poi così tanto. Comunicazione, starci dentro, insomma, queste storie qua. E infine 25 o'clock@ondarossa.info per contattare lo spazio che state ascoltando, 25 scritto al numero o'clock@ondarossa.info. Diciamo infine il recapito telefonico della radio, quando trilla ci animiamo tutti qua nella redazione, 0649 1750. Public Image Limited Pill. PIL 1979. Questa era Memories. E dopo un po' di puntate, benché a singhiozzo, in cui sì, abbiamo messo dischi, però insomma non era la cosa più importante, o comunque non era la sola cosa, siamo ritornati in old style. E vi diciamo che questa sera ce ne andremo proprio intorno a queste sonorità del post-punk. Essenzialmente, spaziando ovviamente, deviando dalla linea tracciata. E cercando, sperando, applicandoci affinché voi tutte e tutti possiate entrare dentro queste sonorità. Siamo lì lì in quella parentesi di tempo, in quell'epoca. Questo è 1977, l'anno del punk. Ed esce un disco per i Wire. I cui primi tentativi furono dell'anno precedente, del 76. Wire del 70, Pink Flag è del 77 per i Wire. Ci ascoltiamo due tracce: File Day for the Sunday e There Three Girl Rumba, o Rumba, non sappiamo in inglese, comunque Rumba è parola con una radice in una lingua diversa dall'idioma anglosassone. Why a Radio Onda Rossa. I wanna be a real day with a Sunday sun again. Fuck up my life, embarrass my wife, and live a bad taste. Start to begin the move on Monday morning. I wanna be a target for the day, so sure. Pictures of me with a new look back sweet. Still lacking a taste, touching in the ways, looking the same as Monday morning. Touching in the ways, looking the same as Monday morning. Think of an answer. Open your eyes. Think of have a number. Don't get swept under a number's a number. A chance encounter, you want to avoid the inevitable. So you do, oh yes you do, the impossible. Now you ain't got a number, you just wanna rumba, and there ain't no way you're gonna go under. Go under, go under, go under, go under. You tear me asunder. Go under, go under, go under. Yeah. Novembre, manifestazione nazionale Piazza della Repubblica, ore 14, non una di meno Roma, non una di meno. Non una di meno contro la vostra violenza, la nostra rivolta. Il 23 novembre la marea transfemminista di non una di meno torna a inondare le strade di Roma. È il momento di cambiare, partire dalle lotte, dalle pratiche, dalla solidarietà femminista contro la violenza patriarcale, economica, istituzionale e ambientale. Contro la giustizia patriarcale nei tribunali difendiamo e moltiplichiamo i centri antiviolenza, le case delle donne, gli spazi femministi e transfemministi a rischio sgombero. Vogliamo un salario minimo europeo, un reddito di autodeterminazione svincolato dalla famiglia e dai documenti, congedi parentali di uguale durata e retribuiti. Vogliamo educazione sessuale per conoscere, consultori per condividere, contraccezione gratuita per proteggerci, la pillola abortiva per decidere. Vogliamo servizi sociosanitari a misura di tutte e tutto. Vogliamo essere liberi di muoverci e libere di muoverci attraverso i confini e di restare solo se vogliamo. Vogliamo l'abrogazione dei decreti sicurezza. La solidarietà femminista non conosce confini. La nostra lotta è con le nostre sorelle che nel mondo combattono per quelle che non ci sono più. Sarà una rivolta permanente. 23 novembre scendo in piazza perché voglio un reddito per autodeterminare la mia vita. Perché la rivolta transfemminista crea resistenza. Sarò in piazza per difendere e moltiplicare gli spazi transfemministi. Sarò in piazza perché voglio gli obiettori fuori dagli ospedali e dalle mie mutande. Il 23 novembre sarò in piazza perché credo nella sorellanza. Eccoci, le streghe sono tornate con le rime più affilate. Ti consiglio di ascoltarle e con la testa consumarle. Siamo qui per farci strada in questo mondo maschilista. Il nostro rap è sempre vero, femminile antifascista. Verso il 23 novembre, solidali sempre. Perché ci vogliamo vivere? Perché ci vogliamo vivere? Perché ci vogliamo vivere? Perché ci vogliamo vivere? Perché ci vogliamo vivere? Perché ci vogliamo vivere? sembra finito così, ma la mandiamo tutta per intero, eh. Silenzio. Quindi lo scomparso Pete Shelley, la voce stridente e acuta, quasi infantile, che avete ascoltato, scomparso lo scorso anno, Buzzcock, Moving Away from the Pulse Beat. 0649 1750, Onda Rossa. Five O'Clock ripercorre, ma un po' per caso, un po' seguendo un estro temporaneo, un estro occasionale. Comunque leggiamo anche un comunicato per un compagno giornalista, che giornalista ovviamente freelance, indipendente come si dice, corrispondente della radio, che dal Cile, che è stato colpito brutalmente dai carabinieros argentini. E c'è un comunicato che dice: come rete internazionale in difesa del popolo Mapuche denunciamo e siamo vicini al compagno Marcello Garay a Santiago del Cile, che come tanti e tante altri in questi giorni è rimasto vittima di un attacco da parte dei Pagos, i carabinieri del Cile, perché gli hanno sparato due raffiche di pallettoni perdigones, così è il nome tecnico, da breve distanza, nonostante si trovasse inerme con le mani alzate, che tenevano in attimo la macchina fotografica. L'attacco gli ha costato la frattura di una mano e diverse ferite provocate dai perdigones, alcuni in zone del corpo che non ne permetteranno l'estrazione. Non è in pericolo e già dice che presto tornerà nelle strade. Marcello, giornalista e fotografo indipendente da anni, per noi è un punto di riferimento informativo importante che ha conosciuto le realtà italiane ed è la voce che abbiamo sentito dai microfoni di Radio Onda Rossa in queste giornate di lotta e di repressione importante. Le foto dei nostri post sono quelle che ci regala per diffondere l'informazione. E con queste vogliamo denunciare ancora una volta il governo Sebastian Pinera, che come i suoi tutti i governi che in questi anni hanno mantenuto uno Stato senza libertà e diritti e un territorio venduto alle privatizzazioni e alle multinazionali. Il silenzio internazionale è pesante, ringraziamo e abbracciamo con Marcello tutte e tutti i compagni e le compagne del Cile che in questi giorni di fascismo e conflitto ci regalano immagini e informazioni reali in prima linea di ribellione e di lotta. Rete internazionale per la difesa del popolo Mapuche, Italia. Not... 23:31 not... e non possiamo a questo punto che andare così. E in questa settimana non potevano mancare le voci storiche femminili. Xen Cervenka o Cervenka. Sicuramente la voce più interessante, più importante del punk 77 di Los Angeles, stiamo parlando degli X. E si avvalsero in questo lavoro dell'ausilio di un navigato per l'epoca musicista, e cioè delle tastiere di Ray Manzarek. Le tastiere dei Doors, per capirci, per chi fosse poco attento, scomparso nel il 20 maggio del 2013. 23:39. Con un balzo saltiamo l'Atlantico, ritorniamo di là, nelle isole britanniche. Non potevano mancare in questa selezione punk post-punk, primo post-punk, Siouxsie and the Banshees. Il celebre The Scream, forse la traccia meno conosciuta è proprio la finale. Switch, Siouxsie and the Banshees, Radio Onda Rossa 25 o'clock. quasi mezzanotte, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. E quindi, ricapitolando, non poteva mancare dopo Siouxsie and the Banshees La legge del padre, Giardino Violetto. Anch'essa casca a cecio. E la manifestazione femminista e transfemminista. Settimana della manifestazione femminista e transfemminista. Contro la violenza degli uomini sulle donne. E poi a seguire una, come si dice in questi casi, delle band seminali. Perubo, un collettivo, un ensemble che già muoveva i primi passi nella prima metà degli anni 70 e poi fa uscire nel 77 questa modern, nel 78 questa Modern Dance. Da qui abbiamo ascoltato Lauging. Tanto per capire come, soprattutto in questi casi, la sperimentazione e l'avanguardia mischiasse senza problemi quelle che erano le tendenze più distruttive del punk, invece agli elementi più costruttivi e edificanti del free jazz. E di qua un altro lavoro che suona benissimo, benché la registrazione sia del 1981. Qui siamo nel pieno territorio del jazz, free jazz. Stiamo parlando di John Lurie, Evan Lurie, Steve Piccolo, Arthur Lindsay, Anton Fair, cioè The Lounge Lizard, una band di jazz che però tagliava le tracce a 2-3 minuti come nel punk dell'epoca. Viene da dire con un'attitudine, ma più che un'attitudine direi un vero e proprio modo di suonare, di intendere questi generi in forma invece aggressiva, se volete, a tratti, in cui anche il sax di John Lurie non è mai melenso o troppo evocativo, ma invece è estremamente sincopato. Non tanto alla maniera del jazz, ma alla maniera del punk. Insomma, ci addentriamo in territori strani da analizzare. Beh, insomma, un po' questo è l'effetto che fa ascoltare questi suoni. E quindi appresso non poteva mancare forse la band femminile, ma un po' al di fuori del mero genere femminile, una band che più di qualsiasi altra sapeva sperimentare questo tipo di incroci assolutamente inediti, acrobatici. Loro suonavano strumenti di derivazione classica, insomma, gli archi, il piano Eppure riuscendo anche lì a usare lo stilema del punk. Le ascoltiamo The Raincoats, ovviamente. Dal loro lavoro Odie Shape. Nella traccia che chiude il lavoro, che si chiama Go Away, e poi facendo un salto, la quarta traccia, che si chiama Dancing in My Head, vele appunto la prima di pura enfasi punk, suonata però con questi strumenti indebiti, non elettrici o poco elettrici. Invece Dancing in My Head, in cui la sperimentazione si avvale di una ritmica, di un sound che viene proprio dal dub giamaicano. Raincoats, disco importante per tutte e tutti. Ricordate che è del 1978, credo, sapremo essere più precisi fra un istante, ve lo diremo senz'altro. Comunque, appunto, diciamo prima punk e poi dub. Quindi sentite qui, avete sentito qui The Raincoats in una versione in cui spesso e volentieri si accavallano influenze, strane venature, in questo caso quasi orientaleggianti. And in line with the physical, we but my spirit is dancing, dancing in my head and in my heart. Spiritual. 20 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock a Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza. E quindi in rapida successione, X-Rated da Milano, lavoro del 1900, anzi disco, 45 giri del 1978, tributari dei Divo. Una coppia di brani che testimonia un passaggio, perché poi X-Rated si spostano verso altri stilemi, e poi ancora una band seminale, al solito facendo passo della lepre, quindi attraversando l'oceano con un salto dall'area di Boston. Altro gruppo, diciamo, di importanza primaria, Mission Burma, che ascoltate ancora sotto la nostra voce, da cui abbiamo ascoltato Learn Now. Di questo primo post-punk sono tributari tantissimi del, poi quella che sarà la scena degli anni Ottanta del post-punk statunitense, a cominciare da Minor Threat, Fugazi, Sonic Youth. Askerdu, insomma, chi volete metterci? Learn Now, come questa Deadpool che ascoltate sotto, sono del 1982, da VS, si chiamava VS il lavoro dell'82. Li abbiamo citati, non possono non andare, perché dopo la mezzanotte ci calmiamo tutti e tutte. Questa è Ait Mesa, Spinat Session del 1986 per Sonic Youth, Radio Onda Rossa. dopo Sonic Youth torniamo indietro, non possiamo che tornare a quel nucleo di anni di cui abbiamo parlato prima, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, in cui si dipana quella che è la storia del primo post-punk. Un altro collettivo che gira intorno alla carismatica figura di Green Guardside, The Leds. Stiamo parlando di Scritti Politti, il cui nome deriva esplicitamente da una delle tue opere più conosciute di Antonio Gramsci, insieme alle Lettere al carcere, Scritti politici. E appunto da Scritti politici in slang, per farlo suonare come Tutti Frutti, diventa Scritti politti. Da cui ci ascoltiamo Skank Block, Bologna. Eccola qua. Thank you. Minuti dopo la mezzanotte ce ne andiamo. Ce ne andiamo con Steve Pulse. L'altra faccia della Gran Bretagna degli anni 70-80. The Ku Klux Klan, the Ku Klux Klan, ear. Ku Klux Klan, yeah. I said that the Ku Klux Klan, yeah. Quella parte della immigrazione dalle dai paesi del Commonwealth verso il ghetto, i ghetti britannici. Ce ne andiamo quindi. Ricordandovi la manifestazione di sabato prossimo, venerdì, non una di meno, contro la violenza degli uomini sulle donne. Tutte e tutto in piazza. Le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa riprenderanno questa mattina, fra poche ore, dopo che vi avrà tenuto compagnia la compagna automatica sonata. Alle 8 le prime pagine della rassegna stampa cittadine redazionali della città del resto del mondo, alle 13 il giornale radio, alle 13.30 lo spazio comunicazione, alle 14 tutta scena cinematica blues, alle 16 oltre la black music, alle 17 le schiene del sol, alle 18 il mezzeres del giovedì, alle 20 tabula rasa, trasmissioni sui libri della radio, alle 23 si chiude con i cuginetti di Apostasia. Il nostro saluto più importante, come al solito, va a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi che ci costringono a una vita limitata. Bella a tutti e a tutte, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista.